Friuli nel mondo, 153esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane d'oggi. Con l'orchestra diretta dal maestro Franco Russo, verranno eseguite per voi, cari amici in ascolto, alcune canzoni friulane che giovani musicisti e parolieri nostrani hanno espresso in questi ultimi tempi e che danno un'interpretazione moderna dei sentimenti che hanno caratterizzato parte delle nostre antiche e recenti villotte popolari e d'autore. Nonostante infatti la modernità dei ritmi e dei motivi, queste canzoni, nella loro semplicità e freschezza, cercano, attraverso testi friulani, di accostarsi il più possibile all'ambiente e alle tradizioni del Friuli. Dalla voce di Luisa Casali, ascoltate la canzone dal titolo La Fortune, di Michelutti e Feruglio. L'an passata mi plaseve che il fruttada su fin fur e cumò che non mi garbe lui mi corse in pridaur. Noi se biele che ste naine che fa nome Matea in che smonta e curiose o sindus di che il pare la fortuna è un'estrose c'è che si uno si pove al volpa che già la sfloce a sta so che il vol la trai calbia davanti trote e non il vol ci appale mai une volte non mi lave che il vigiu dal naspizza vuoi coso innamorate cui s'allacca lei in buset in che smonta e curiose o s'indus di che il pare la fortuna è un'estrose c'è che si uno si pove so innamorate cui s'allacca lei in buset in che smonta e curiose o s'induc di che il pare la fortuna è un'estrose c'è che si uno si pove c'è che si uno si pove. Il motivo intitolato Ocianti Ocianti di Michelutti e Noliani viene interpretato da Edda Pinzani. Io non sai c'è mut che sedi che mi toce di cianta cal sei nul cal plovi a seli senti un cianti o no questa non ten mai le muse dure né coi mei né col mio ben non ten mai le muse dure né coi mei né col mio ben. E o cianti o cianti o cianti dud mi invidi al biel cianta soressero ai lapi vide ma poi ben o sai ama se vuol ben qualche fastidi io cianti e lui al va si può ben buttare in gridi così sa si contenta non soi triste non soi brutte tanti srobi so sai fa né sei viele né sei brute parce no hai o di cianta non ten mai le muse dure né cui mei né cul mio ben non ten mai le muse dure ne cui mei ne cui nio ben. Se può al ven qualche fastidi, io ciampi lui al va. Si può ben buttare i ridi, così sa si contenta, così sa si contenta. Albionte Tessarin esegue la composizione di Romano Donato dal titolo Cumò Cumò. Finalmente la pluviere mi ha invitato, pensi tu con me, il mio cuore l'ha fatto intorno. Mandi mame o cor con ie, o ven cumò cumò, o ven pare di sì, o ven cumò cumò, pare di dal nome a te. L'ere tanto ti spietavi, ti chialavi di scritto. L'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. O ven cumò cumò, o ven pare di ti sì, o ven. Tanto ti spietavi, ti chialavi di scrivo. L'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. Ti chialavi di squinto, l'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. O ven cumò cumò, o ven pare di ti sì, o ven. Ed infine ascoltate la voce di Silva Balanza che interpreta la canzone Che Valade di Romano Donato. Tornar fra tes montagnes o oh, ma non sai dove che sta. Oh Signore, ti prego, ti prego, fa sfiorire le rosute, dammi segni la che è parco planti. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.